Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, caro Alessandro, devi aiutarci. Ti ho lasciato lì l'articolo. Oggi la Gazzetta ed è arrivata così a brandelli in maniera strana. È arrivata così. Se tu ci aiuti a leggere un attimo, perché io ho fatto fatica a vedere la prima parte. È arrivata, sì, ho sentito la tua rassegna, quindi ho sentito la fragranza croccante, diciamo così, della pagina ridotta dalle tue. Nulla tue... contro la Gazzetta, nulla, i colleghi della Gazzetta. Nulla. Se iniziassero a raccontare anche delle vittorie del Milan, non succederebbero queste cose. E pensi che oggi invece è l'anniversario del triplete dell'Inter del 2010. Ah, e anche del triplete della Juve, bene. Quindi capisci, perché oggi battendo il Bayern 2-0 l'Inter è diventata campione d'Europa e c'aveva anche il campionato della Coppa e la Coppa Italia. Pensa, sembrano passati millenni, invece era solo il 2010. Vabbè. Comunque, caro Oscar, ben ritrovato. Allora, io oggi devo dirti ho tre annunci, perché voglio, sì. Come ci dicono sempre, ma voi siete amici di uno, siete, no, prima dei santi, perché poi ti dico perché collego il santo, la santa, anzi. Allora, volevo dirti che a seguito del fondamentale evento politico del fine settimana, i miei cinque gatti hanno fondato già la sezione del partito, però pretendono il 2 per 1000 immediato, cioè mi hanno fatto immediatamente capire che hanno capito la finalità, diciamo così, utilitarista della scelta. Infatti la mettono sul contributo, neanche il sui croccantini. Partito animalista. Subito, sezione immediata, 2 per 1000. Sezione Milano, quindi sezione Milano. Sezione, fate bene fratelli, ultimo piano, 32. Quindi è pazzesco, ma è così. Oh, è questo per dire come la penso su questa roba. Ma non c'è mai. Puoi sentire subito Berlusconi subito. Berlusconi ha detto una sugli animali e sulle donne e i cagnolini che, vabbè. E allora io ho voluto fare... perché sono birichino, una domanda birichina, e ho messo una domanda speciale. Ho detto, ma signora, se lei dovesse trovarsi nella drammatica situazione di dover scegliere tra suo marito e il suo cagnolino, che scelta farebbe? E le signore hanno scelto per il 73% il loro cagnolino. 73%. Vabbè, okay. Ma questa era l'autobiografia dopo la sentenza, anche gli ha mancato. Comunque, questo secondo questo paese ridicolo in cui quando si va al potere ci si la marcia per arrivare al potere, viene il momento beghine, bisogna assolutamente inginocchiarsi di fronte alla Chiesa, e ora è il momento dei 5 Stelle, caro sì. Grillo, vedo i pezzi in cui mandi emissari ai cardinali, mi sganascio alle risate. Non serve questo per tentare di fare la nuova DC. No, io ho ironizzato dopo essersi detto francescano, mandarla emissario dal cardinale prenderà i voti giovedì in seminario. Sì, ma il problema è che in Italia per prendere i voti elettorali si crede che serva fingere di prendere i voti quelli ecclesiati. E santo Dio, dopo decenni siamo sempre lì. Poi, infine, per bastonare equilibrare, ma in quale paese può passare per la testa come una proposta utile e addirittura riformista, progressista, proporre di dare le azioni di un'azienda fallita ai suoi dipendenti? Vedi oggi Del Rio intervistato, che propone di farlo per l'Italia. Del Rio è fallita all'Italia, vuoi dare carta straccia ai suoi dipendenti? Ma come vi passa per la testa? Perché pensate che siete più credibili dicendo cose che non stanno né in cielo e né in terra? Perché dici cosa, perché prima del santo? No, perché oggi è la santa dei casi impossibili, cioè Santa Rita, che credo che sia la vera patrona d'Italia a questo punto. Santa Rita da Cascia sopravvive a un marito violento che viene ucciso, tira sui due figli e poi passa una vita di santità come si fa agostiniana, ed è una santa popolarissima appunto perché è la santa non solo delle mogli infelici, quelle che poi alla fine scelgono il cagnolino, ma appunto dei casi impossibili, ed è, secondo me, lo dico con rispetto per San Francesco, Santa Scolastica e Santa Chiara, la vera patrona d'Italia, perché qui è solo la santa dei casi impossibili può risolvere i problemi del nostro paese. Buon compleanno a Leonardo Del Vecchio, e ti dirò di più. oggi c'è un compleanno che ho pensato che non dovevo ricordare, invece lo ricordo perché gli auguro di passare una giornata a riflettere, perché oggi è il compleanno di Roberto Napoletano. E io allora gli dico: un compleanno di riflessione, caro direttore. Tutti qua ti dicono rifletti, punto. Allora, alle 8:25, certo che Oscar, tra partito animalista lanciato da Berlusconi, tra la vicenda anche di appunto Grillo, il dibattito sui giornali se Grillo debba essere considerato francescano o no. Ma ci rendiamo conto, paginate e paginate sui giornali. C'è riuscito, era questo che voleva. Esatto. Il dibattito anche in realtà, poi le notizie forse più interessanti, tipo la raccomandazione dell'Unione Europea, della Commissione Europea che oggi arriverà, e cioè ripristinate i politici gestiranno la tassa tutto. Sulla prima casa. No, quello vabbè, che è evidente è che Forza Italia e il PD stanno andando all'accordo con la sventurata proporzionale per votare prima delle leggi di bilancio, perché entrambi vogliono stare lontani dai conti, cioè un accordo tra le due forze che così dicono a tutta l'Italia qual è la loro corresponsabilità sui guai del paese. E qui appunto è il punto politico forse più interessante. Berlusconi che lancia questa idea: facciamo una legge elettorale proporzionale, già denominata Tedeschellum. Io su questo voglio dire, stendiamo diciamo, anche un velo pietoso. Anche non confondiamo i paesi seri con le puttanate. Vabbè, infatti questo è il Tedeschellum. Ma dai, cioè, è un burletto. Burlettum. Ma dai, no, vabbè. Comunque la proposta di Berlusconi è: caro PD, ti offro un compromesso e voti su una legge elettorale che va bene anche a me, che Berlusconi, serve a non stabilire chi vince. E il 24 settembre però si deve andare a votare. Questa è questa... la legge di bilancio e non ci sporchiamo però le mani con i numeri. Oscar, almeno è una proposta, come dire, carte scoperte, no? Sì. Bisogna capire se è una proposta preferibile vera, all'ipocrisia con cui il PD dice e non dice tutto, ha fatto andare avanti il dibattito, poi si è bettato al 50-50. Almeno Berlusconi l'ha sempre detto che vuole il proporzionale, in maniera così che gli italiani non scelgano il governo con un premio. Comunque chiamateci su questo, cioè cosa bolle in pentola nella politica, all'800240024, se volete chiamarci anche sul partito animalista. Antonio Pennacchi oggi ha detto: allora facciamo il partito Monica Bellucci perché ci piace Monica Bellucci a tutti gli italiani, e quindi facciamo il partito, amiamo gli animali. Io faccio parte di Ivanka. Partito Ivanka. Ma tu hai già... non c'è paragone adesso. Ma se hanno già fondato la sezione a casa tua, ma infatti io del partito io animalista devo tentare, e non mi posso allineare, sennò finisco in minoranza. I tuoi cinque gatti che ricordiamo non te lo ricordi, non te ne ricordi i nomi. Lolo, Lola, Lulu, Ragù, Artù. Lolo, Lola, Lulu, Ragù, Artù. Certo. Ma è uno vale uno oppure ci sarà un segretario? No, no, i gatti sono individualisti. si prevedono lotte di corrente al cui confronto quella tra Salvini e Bossi è nulla. Cioè. Lolo, Lola, Lulu, Ragù, abbracci Umberto. Però il tempo passa, caro Umberto. È così, nei partiti il tempo passa. Ah, certo, c'è anche la Lega con Umberto Bossi che fa il Bersani. Questa è casa mia, mi devono cacciare, non vado via. Visto che Pisapia mette subito nell'angolo MDP e dice: tanto con Renzi bisogna andare. E quelli sono usciti dal PD, ragazzi, per sentirsi dire da Pisapia questo. Siamo già in campagna elettorale. Che roba. Vabbè, noi abbiamo chiamato due colleghe che spesso sono con noi lunedì, ci fa molto piacere. Elisa Calessi di Libero, buongiorno. Ciao Elisa. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Così come Annalisa Cuzzocrea di Repubblica. Buongiorno Annalisa, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo dire che facciamo questa scelta perché se ci fidiamo solo di colleghi così, solo loro possono trovare un bandolo di logica in cose, certo, che a noi sembrano deliranti. Vabbè, noi con Oscar, che ha già fondato la sezione del partito animalista a casa sua, voi capite che la gatti situazione... non io sono sì, scettico gatti, gatti. Io faccio degli editoriali ma loro intanto dicono 2 per 1000, questo è no, in realtà il tema serio, questa offerta insomma berlusconian renziana. Annalisa, partiamo da te. Annalisa Cuzzocrea, Repubblica. Dobbiamo credere a questo come un passo serio, cioè accordo serio, e si vota il 24 settembre, cioè un tavolo di trattativa serio, questo voglio dire. Ma sai che io vorrei fare come te, cioè non leggere più una riga sulla legge elettorale. E tu devi anche scrivere. E tu invece devi scrivere. Adesso devo scrivere, pensa te. No, scherzi a parte. E non so se l'offerta sia seria, è il tentativo di Berlusconi di entrare in partita e di non farsi estromettere dal gioco della Lega di Salvini, che invece ha appoggiato quella specie di Mattarellum bis, Rosatellum, tutti quei nomi brutti che sono stati coniati, sulla quale Renzi punta di più, cioè quella che è metà maggioritario con i collegi e metà proporzionale. Certo, Renzi ha sempre manifestato, almeno in privato, l'idea di voler andare a votare prima della scadenza, in autunno, forse per evitare di pagare le conseguenze elettorali di una legge finanziaria che non, una stabilità che non si prevede, ma qui Oscar è sicuro su questo, cioè che Renzi voglia votare, voglia votare prima di scoprire i conti. È probabile, del resto sarebbe l'unica ragione razionale per andare a votare 3 mesi prima della scadenza naturale, o comunque pochi mesi prima. Quindi l'unica ragione può essere questa paura di una stabilità molto molto dura. Ma che cosa faranno alla fine? Sinceramente io non lo so. So che anche i 5 Stelle, che avrete notato, hanno un atteggiamento sulla legge elettorale molto meno aiuto, cioè molto meno, come dire, eccessivo nelle loro reazioni, anche i tentativi che vanno contro di loro, perché anche loro, come Berlusconi, vorrebbero entrare in questo partito e vogliono cercare di frenare tutte le cose che possono metterli in difficoltà, e cioè i collegi, che detestano, e il premio alla coalizione. Una legge che non avesse nessuna di queste due cose potrebbe trovare d'accordo anche loro, quindi ci sono, ognuno ovviamente ognuno ha il proprio interesse, è chiaro. Però la cosa che può unire chi Berlusconi non vuole il maggioritario perché sa che non arriva nel primo e nel secondo, c'è chi non vuole i collegi perché il meccanismo di scelta dei candidati crea un casino, e stiamo parlando dei 5 Stelle. Il minimo comune denominatore tra tutte queste cose qua è proporzionale puro, mani sciolte, gli italiani non decidono chi governa, e alla fine capo dello Stato te la vedi tu, perché sai, conta solo la resa dei conti di ciascuno nella propria area politica. Altrimenti non vedo proprio come. Il pericolo è questo. Elisa Calessi, ovviamente si ritornerà a discutere dell'idea, è un tentativo di ripristino del cosiddetto patto del Nazareno? No, sì, non è mai finito. Qui Oscar trova più interessante forse il partito animalista dei suoi 5 gatti. Però insomma, dal punto di vista del centrodestra, la si può leggere così? Ma è chiaro che Forza Italia, se vuol entrare in partita, come diceva Annalisa, deve dialogare col principale partito, che in questo momento è il Partito Democratico. Quindi diciamo, un patto del Nazareno è inevitabile se vuoi dall'opposizione ottenere qualcosa. Quindi non mi scandalizza tanto questo. Che altro io temo che ho l'impressione che la proposta Berlusconi, per quanto sia diciamo una mossa tattica intelligente, perché punta su quello che vuole veramente Renzi, cioè andare a votare a settembre, mi sembra che abbia poche chance di passare, per un motivo molto semplice. Lui propone, come dicevamo prima, sostanzialmente un proporzionale. Sì. Il problema è che se tu mantieni le cose così come stanno, cioè se non fai niente, che secondo me alla fine sarà lo scenario più probabile, è esattamente un proporzionale, cioè le leggi, il sistema uscito dalle sentenze della Consulta è di fatto un proporzionale, quindi diciamo non c'è bisogno di fare alcun accordo. Certo, quello che in più potrebbe dare Berlusconi a Renzi è alzare la soglia di sbarramento, ma se tu alzi le soglie di sbarramento non te lo vota Alfano al Senato. Sì. Quindi insomma, in fin dei conti, cioè, per arrivare alla morale, secondo me non se ne farà niente. Non se ne farà niente, che è un po' il mantra che abbiamo sentito Oscar in tutti questi mesi, no? Di legge elettorale, alla fine credo che ci terremo questa, o queste, meglio dire, e si andrà a votare così, quando non si sa. Però sì, si farà un piccolo decreto facendo quelle piccolissime modifiche necessarie, cioè l'introduzione delle preferenze di genere, una questione sul sorteggio che aveva posto la Consulta, e fine lì. Perché la verità è che il proporzionale va bene a tutti, ma il proporzionale c'è già. Se non si fa niente, se non si tocca niente, c'è il proporzionale. Funzionerà così. Caro Oscar, qui che orrore. Perché dice che orrore? Ma perché faccio vedere, far finta di dimenticare la lezione del proporzionale, cioè il fallimento della Prima Repubblica, e niente, questo è un paese che Vico, Giambattista Vico, l'eterno ritorno dagli errori, è così, bisogna arrendersi, perché siccome la convenienza dei partiti, perché hanno paura di far vincere qualcuno che non sia il tradizionale destra o sinistra, ma poi il problema è questo, ciò che ha motivato questa preferenza, il timore della vittoria del 5 Stelle, è la cosa che scandalizza tutti. L'Italia è diventata tripolare, Ah, ho capito. E allora il problema è che siccome quelli sono alieni rispetto a chi ha vinto alternandosi uno e l'altro l'elezione della Seconda Repubblica, meglio tornare al fatto che non c'è un premio per nessuno. Allora, questa è la dice lunga su come sono evolute nel tempo le culture di responsabilità dei grandi partiti in Italia, perché antepongono l'impossibilità di un governo scelto dagli italiani. Io l'ho chiamata la sindrome del Palio di Siena, cioè alcuni hanno parlato. Cioè l'idea che l'importante del Palio di Siena, sapete, certo uno cerca di vincere come contrada, ma la cosa fondamentale è che non vinca la contrada rivale. Ecco, questa è la tragedia più grave. Anche nel calcio, non è che sì, però al Palio di Siena è più, ti assicuro di più. Comunque ci sono gli ascoltatori, c'è Paolo che ci chiama da Budrio. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi, buon inizio settimana. Grazie a lei. Allora, io della legge elettorale ne sento parlare, e ho 54 anni, da quando ero in terza media. E non è cambiato niente. Poi tutti questi nomi in latino mi hanno fatto venire in mente quello che potrà essere il nome reale della prossima. Che io ho pensato a Mentulorum. Per chi sa il latino è troppo alto, perché capisce la mentola, le scorregge, insomma chiamiamolo cagatello, ma va, che così capiscono tutti meglio. Abbiamo ascoltatore di livello, io mi congratulo elevato, ma se lo chiamiamo cagatellum arriviamo subito al punto. Ecco, va bene, grazie Paolo da Budrio per aver elevato così la discussione. Ma lui l'ha elevata, io l'ho abbassato. Abbiamo degli ascoltatori meritevoli. C'è Claudio da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno a voi e complimenti sempre per le vostre belle ironie. Le volevo soltanto dire, non mi rendo conto se Parolin se è catapultato ad il cardinale assisti, Parolin segretario proprio di Stato. Per poter poi dare la sua giusta controbotta a Grillo dicendo non si può permettere di dire che lui è francescano. Allora io ho fatto una semplice deduzione, no? Sui tre soggetti principali che oggi in politica ci danno dalla mattina alla sera le loro belle iniziative, la loro bravura nel poter prendere voti. Allora Berlusconi ha fatto un movimento animalista, perché giustamente ci stanno, dice, ha detto addirittura che se domandi a una donna tra il cane e il marito chi decide, quella è la battuta, prendono il cane, non so la moglie sua chi avrebbe preso. Uno, Renzi, per me con San Francesco, anche se è toscano come lui, non c'ha nulla a che vedere, perché questo parla sempre dei sordi, conflitto col padre, Parmazzetta e compagnia, quindi per San Francesco il denaro è l'ultima cosa. Allora, dei tre, visto che Grillo è entrato, ha preso in mano un movimento mettendoci del suo, facendo anche i sacrifici, saltando spettacoli e compagnia bella, e molti del movimento si dimezzano i stipendi, vanno a lavoro in bicicletta, io ora chiederò a Parolin, fra i tre, chi è più secondo francescano? La sua logica, qual è quello più vabbè, forse nessuno dei tre, forse le risponderebbe, nessuno dei tre può reputarsi francescano. Insomma, Grillo qualche denaro anche lui giustamente e legittimamente l'ha messo da parte. Però non so, Annalisa, questo avvicinamento Grillo Chiesa Cattolica è un processo così curioso oppure no? Ma sinceramente tanto curioso, soprattutto il riferimento al francescanesimo, no, perché sia Grillo che Casaleggio, Gianroberto Casaleggio, hanno ricordato più volte che il Movimento 5 Stelle è nato il 4 ottobre nel giorno di San Francesco, per delle ragioni precise, si è sempre richiamato a quel tipo di messaggio con il reddito di cittadinanza. Ora certo è vero che un movimento è nato da un vaffa, è difficile considerarlo francescano, e questo oggi molti che difendono in qualche modo la storia, insomma, del santo lo ricordano, però non era una cosa nuova quella che ha detto Grillo. Del resto la marcia per Uccisi i 5 Stelle l'hanno già fatta 2 anni fa. Cos'è che è successo? È successo che in realtà adesso ci sono degli avvicinamenti reali tra il Movimento 5 Stelle e la Chiesa, cioè c'è un tentativo reale del Movimento 5 Stelle di prendersi voti dei cattolici, e lo abbiamo visto in tante occasioni. Lo abbiamo visto anche sulle... loro hanno sempre lottato contro le scuole private, no? Cioè per loro la scuola privata è come la TAV, cioè, no? Non esiste che si diano fondi alle scuole private e non alle pubbliche, ma adesso che si sta votando su internet per il loro programma scuola, hanno escluso questo stop ai finanziamenti le materne, che sono una buona fetta, ed era una cosa che non avevano mai fatto nei loro atti parlamentari. E che anzi, fai bene a rimarcarlo, a Torino, nell'operato del sindaco 5 Stelle Appendino, ha creato problemi proprio con la gerarchia locale e con la comunità cattolica locale, perché era rimasto indietro, cioè a Torino sono arrivati i tagli alle scuole paritarie da parte del comune, infatti. Facciamo così però, dobbiamo fermarci un attimo, 2 minuti, poi riprendiamo da Elisa Calessi, Libero, Annalisa Cuzzocrea di Repubblica e i nostri ascoltatori. Ci sono alcuni gatti che hanno telefonato, miau, che vogliono due per me. Hanno detto miau, non riusciamo a interpretare se voglia cosa voglia dire, però insomma, anche bau, anche due cani hanno già chiamato. Il 20% di cani ci hanno chiamato, l'80% di gatti. Questo è interessante come sondaggio da fornire a Berlusconi. Immediatamente, perché così sceglie i candidati. 24 mattino. Attenti a noi due. Qua chiedono, caro Oscar, la butto lì, uno spettacolo Grillo Giannino farebbe il tutto esaurito in ogni tappa. Grillo Giannino. Grillo fa tutto esaurito da solo, quindi sai, se Giannino si mette per fare il tutto esaurito, io faccio il parassita, perché sale le riempie lui. Cioè, l'ascoltatore dice questo. Sono abbastanza ancora nel controllo dei miei mezzi mentali per capire che è così. Allora, qui c'è Anello, ci chiama da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, salve. No, io volevo fare una riflessione sul discorso, le proposte leggi elettorali dei nostri cari politici, ma in Europa sono più fortunati negli altri paesi che hanno una classe politica, diciamo, più efficiente, più seria, oppure siamo noi in Italia ad essere meno, diciamo, attenti nelle nostre elezioni, ad eleggere le persone, quindi non rieleggere le persone nel caso queste persone non facciano quello che promettono. Perché a questo punto non mi capisco come mai passano gli anni, anni, anni, stiamo sempre nella stessa situazione, se no anche peggio. Capito, bella, bella riflessione. Io trovo che in Italia la difesa dei leader come se fossero fondatori di religione da parte di chi vota il loro partito spiega molto più che altrove la permanenza di questa cultura, che lei giustamente critica. Si pone una domanda, no? Cioè, all'estero vanno a casa molto più spesso quelli che perdono, da noi no. E aggiungo anche un caso, titolo del Messaggero di oggi, tanto per riflettere: vigili urbani, quindi della capitale, tamponano e truccano i verbali e danno la colpa a un albanese. Ecco, c'è anche questo aspetto poi in Italia. Adesso il titolo, voglio dire, serve a capire che noi abbiamo una propensione individuale anche poi a comportarci come i politici, capendolo esattamente, fanno e prendono i voti anche per questo, anche se questo non lo ammette nessuno. A sentire i politici sono tutti dei portabandiera della legalità, come no. E poi c'è sempre questa cosa molto italiana di affezionarsi e di credere alle persone, ai propri leader, no? Rispetto all'estero. Non so, Elisa, per cui chiunque parla di difetti passa per uno che invece meglio non criticare, perché il mio leader è al di sopra degli altri. Che è un po', Elisa, la questione del centrodestra, forse in maniera un po' più plastica, anche del centrosinistra, ma il centrodestra che è attaccato ancora a Silvio Berlusconi, sappiamo, no? Salvini, certo, scalpita, sgomita, ma i voti non li ha, e si dice il centrodestra, per tornare, e se si dovesse riunire, comunque deve tornare a vincere sotto l'ala di Silvio Berlusconi. Da lì non ci si schioda, no? Beh, sai, il problema è questo, che finora, cioè, allora, partiamo da questo: l'Italia sostanzialmente è un paese di centrodestra, di moderati. Salvini ha costruito un buon consenso, diciamo che ha incrociato anche un momento storico molto particolare, in cui, vuoi per la crisi economica, vuoi per l'emergenza immigrazione, vuoi per una serie di fattori per cui ci sta peggio, insomma, diciamo così, c'è anche i cosiddetti moderati apprezzano una linea abbastanza forte su molte cose, no? Perché ovviamente quando si sta male si vuole un cambiamento totale. E detto questo, comunque Salvini non parla a una fetta di quell'elettorato di centrodestra a cui comunque Berlusconi parlava, e quindi, cioè, finora, diciamo, il miracolo che era riuscito a Berlusconi, cioè riunire tutti i cosiddetti moderati, cioè tutto l'elettorato di centrodestra che va dalla Lega al centro, diciamo tra virgolette, perché sono tutte categorie che mi rendo conto sono molto evanescenti, però insomma per intenderci, questo miracolo era riuscito solo Berlusconi. È chiaro che Berlusconi non è immortale, anche se si avvicina diciamo, all'immortalità, però non lo è. E quindi prima o poi dovrebbe emergere, si spera che emerga un'altra leadership, però al momento un'alternativa vera, cioè uno capace di parlare anche a quella parte che, a cui Salvini non parla, in questo momento non c'è. Poi bisogna dire che comunque ha un fiuto Berlusconi che è tanto di cappello, cioè ha una capacità di cogliere i mutamenti velocissimi, cioè questa cosa qui del partito animalista che lui si è inventato, cioè a suo modo è geniale, cioè nel senso che lui si è immediatamente reindirizzato alla logica del proporzionale, cioè lui capendo che si va in quella direzione ha capito che qui il problema è fare tante piccole liste, tanti voti, tante piccole liste. E cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio nel partito animalista? Cioè se seguirà dibattito, se oggi su Repubblica per esempio Annalisa c'è tutta una pagina con tutte le associazioni animaliste disperate a dire ci ha rubato l'idea, è andato, ma io non lo so veramente, sono un po' basito, ma questo no, io sono basito perché giustamente Elisa, conosco e stimo Elisa, dice Berlusconi è geniale in un altro paese, ma è geniale perché in Italia così figura, in un altro paese leader che proponessero dopo aver avuto legge elettorale che consigliavano agli elettori la scelta alle coalizioni delle maggioranze di governo di tornare a spogliarli del potere, andrebbero a casa. Da noi invece sono dei geni, questa è la differenza, caro ascoltatore che hai posto la domanda prima, e questa è la differenza di fondo. C'è, diciamo, ragiona secondo l'esistenza. Esatto, è per carità di Dio. Ma non era una critica a te, hai ragione. In questo è un genio. Machiavellismo puro, cioè significa ovviamente che non c'è un interesse nazionale condiviso, per cui se, ripeto, un capo dei Labour o dei conservatori va a dire ai britannici, dopo aver avuto il maggioritario uninominale, uno può pensare quello che vuole, può preferire il maggioritario francese, ma insomma, torniamo col proporzionale, non decidete. Vacca, non arriva alle elezioni. Da noi sono dei geni. C'è Daniele da Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Eccoci. Buongiorno, avevo chiamato solo per dire una semplice cosa, proprio per la pochezza politica in Italia. Si stanno sbattendo tutti a parlare di questo partito, degli animali, di questo e di quell'altro. Io quello che, siccome bene o male seguo in un certo qual modo la politica, ho sempre notato una cosa, non c'è nessun interesse a noi, per noi del Sud, verso noi del Sud. Vi spiego in breve cosa voglio dire. Io sono un uomo di 45 anni con 3 figli, disoccupato, cioè io non lavoro, sono un bianchino, non lavoro, vado a domandare aiuti in giro negli enti statali, tutti mi dicono no, non c'è niente, cioè nessuno viene a darmi una mano, nessuno viene a dire aiutiamo queste persone. Dei 45 anni non si parla mai, si parla sempre dei 60 anni, dei 50 anni, o dei giovani. Si parla sempre dei ragazzi che devono cominciare a lavorare, e noi? Ma infatti è la classe, insomma, è la classe anagrafica più in difficoltà, quelli che non hanno un posto di lavoro attorno ai 50 anni. Ma non è che non si parla solo di loro, parlare di loro significherebbe ammettere una politica che ammetta gli errori clamorosi che ha commesso. 50 miliardi di bonus dati a tempo in 3 anni da Renzi, 50 miliardi, stiamo parlando di più di 3 punti di PIL, hanno come effetto l'Italia sui talloni, ma non si può dire perché pare che se lo dici stai negando la realtà. Io come ho criticato brutalmente Berlusconi nei suoi anni di governo, quando si capiva che stava tralignando rispetto a quel che prendeva i voti e quel che faceva il contrario, faccio lo stesso con Renzi. Eppure i partiti reagiscono dicendo che è colpa dei tedeschi se abbiamo i talloni. Perché la Spagna che era in ginocchio come peggio di noi, che invece cresce il 3%, vuol dire che lì hanno fatto cose diverse, eppure anche lì hanno faticato a fare un governo, hanno dovuto votare 3 volte di seguito, ma loro crescono al 3% e noi no, e diamo la colpa agli altri. Allora, Annalisa Cuzzocrea, abbiamo 30 secondi per concludere la questione del borsino, del si voti non si voti, a questo punto lo facciamo, cioè si vota a settembre, si arriva a scadenza naturale, quali sono i rumors ora? Ma i rumors sono settembre, io credo che non, che si arriverà alla fine a scadenza naturale quasi per inerzia. Sì, non lo so, ma questa è davvero una sensazione, perché valutare in base alle dichiarazioni in modo razionale è impossibile. Certo. Cioè, quindi affidiamoci a un minimo di istinto che abbiamo, come dire, maturato negli anni. E che ti fa dire scadenza naturale? Sono molto d'accordo con Oscar, sai, quando parla di irresponsabilità della politica rispetto alla legge elettorale, io penso che la chiave sia esattamente quella, nel senso che non volere adesso dare una legge elettorale chiara possa dire a questo paese chi lo governi, che siano i 5 Stelle, che sia il PD, che sia il centrodestra, una grande coalizione, è davvero un segno dell'irresponsabilità di questa classe politica. È così, l'importante è che non vinca l'avversario, e questa è la sensazione, quella, l'importante è che non vinca. Comunque noi ringraziamo davvero Elisa Calessi di Libero e Annalisa Cuzzocrea di Repubblica. Elisa e Annalisa. Elisa e Annalisa. Però io quanto adesso. Istinto e a testa mi fido di quella femminile, ci può fare. Io ho capito che sono pensavo dei sottoprodotti. Invece ti fidi dei 5 gatti. Io come maschio mi sono proprio un sottoprodotto. È così. Va bene. Dai, ci troviamo domani, ringraziando Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione, insieme a Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo. Cos'è questa roba? Cos'è questa irruzione? La gazzetta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Bravi, è l'anno del triplete. Dai, grande su, Juve. È il 3 giugno, tutti a tifare. Insomma, hanno fatto il triplete e bisogna dare loro atto. Adesso non dà per scontato. Bisogna poi manca un pezzo. Ah, un pezzo. Pare. A domani.